Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Legati e imbavagliati nella villa sul Carso, notte di terrore e violenze per due coniugi rapinati a Banne. Accoltellato dal figlio 14enne, in gravi condizioni un sanvitese e il ragazzo fermato dai carabinieri. La giornata della riconoscenza per i donatori di organi, cerimonia a Udine tra testimonianze e consegne di attestati. Polso debole per la manifattura in provincia di Udine, i dati del terzo trimestre di Confindustria, sensibile calo della produzione. Scuole paritarie, open day a Trieste, ampia l'offerta a chi le sceglie e perché. Deficit di attenzione e iperattività, un convegno all'ospedale di Cattinara, nostra intervista. Premio Lucchetta, parlano il presidente della giuria Riccardo Iacono e la vincitrice della sezione radiofonica Azzurra Meringolo. Roberto Boll & Friends, due spettacoli al Teatro Nuovo, al piccolo festival dell'animazione, torna Margherita Giusti dopo il successo ai David di Donatello. Sport, il basket, sfida da primato per la Gesteco che a Cividale affronta la Fortitudo Bologna. Tuffi, prima giornata del meeting Città di Trieste, a Lignano i mondiali paralimpici di nuoto, pinnato e apnea. Tre medaglie per Katia Aere. Le 12:31, 40 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Abbiamo la cronaca nera in apertura con la violenta rapina avvenuta in una villa di Banne sul Carso triestino, dove una coppia è stata immobilizzata e imbavagliata da alcuni banditi che erano entrati usando probabilmente le chiavi sottratte in precedenza. Le indagini avrebbero già preso una direzione precisa, ma dalla questura non trapelano finora particolari, ma sentiamo in diretta Lorenzo Gerlinzoni. Sono stati sequestrati, legati, imbavagliati e rapinati di notte in casa loro a Banne sul Carso triestino da una banda di malviventi, protagonisti loro malgrado Vojmir Kocman con la moglie. Lui è un imprenditore molto noto e stimato sull'altipiano, presidente e fondatore nel 1981 della Coimpex di Opicina, ditta di import-export specializzata nella vendita di macchine e impianti per la lavorazione del legno, sponsor della squadra di calcio del Krasrepen che milita in eccellenza. La rapina, una delle più violente degli ultimi tempi, come confermano anche fonti di polizia, è avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 novembre nella villa di famiglia appunto in località Banne tra Opicina e Trevigiano. I malviventi, forse originari dell'est Europa, sarebbero entrati in casa senza lasciare evidenti segni di effrazione. A un tentativo del padrone di casa di reagire, i rapinatori avrebbero risposto con estrema durezza, ferendolo al braccio. Dopo aver sottratto la refurtiva, il cui valore resta ancora da quantificare, i ladri si sono poi dileguati lasciando la coppia legata, imbavagliata e in stato di shock. A liberarli e a dare l'allarme la mattina dopo il nipote. Fondamentali per ricostruire i movimenti della banda a questo punto saranno le registrazioni delle videocamere della zona tra Opicina, Basovizza e i valichi di frontiera con la Slovenia sul Carso. Ancora parecchi dettagli al vaglio degli investigatori, come il fatto che per intrufolare nella villa i rapinatori possano essersi impossessati di un mazzo di chiavi perso qualche tempo prima dai padroni di casa, secondo quanto riportano voci di paese, o ancora che il gruppo di malviventi durante la rapina abbia chiesto del figlio e del nipote della coppia. Il primo, Goran Kocman, è presidente della squadra Krasrepen. Da Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Grazie a Lorenzo Gerlinzoni e continuiamo con la cronaca. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Vito al Tagliamento con prognosi riservata l'uomo che ieri sera è stato ferito con alcune coltellate dal figlio 14enne al culmine di un diverbio a bordo di un'auto. Subito dopo aver colpito il padre, il ragazzo è fuggito a piedi nei campi ed è stato individuato e fermato alcune ore più tardi dai carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla procura dei minorenni di Trieste, sconosciuti per ora i motivi del gesto del giovane, che vive con la madre dopo la separazione dei genitori. Il padre si è ricostruito una famiglia. Voltiamo pagina. L'associazione Donatori Organi insieme al Centro Regionale Trapianti celebra oggi la giornata regionale della riconoscenza, evento unico in Italia. A Udine, fra coinvolgenti testimonianze di solidarietà, sono stati consegnati gli attestati ai parenti di decine di donatori. Un abbraccio tra Deianira Reyes, madre di Silvia Piccini, tre volte uccisa da un automobilista mentre si allenava in bicicletta non lontano da San Daniele tre anni fa, e la psicoterapeuta del Centro Regionale Trapianti. Gli organi di Silvia hanno salvato sei bambini. Due anni prima dell'incidente, mamma e figlia si erano ripromesse che in caso di coma della madre, Silvia, che voleva fare il medico, avrebbe autorizzato l'eutanasia e invece in caso di morte di Silvia, la madre avrebbe autorizzato la donazione degli organi. L'avevano detto un po' per scherzo e invece così purtroppo è stato. L'aver donato, aver dato un senso a qualcosa che apparentemente non ce l'ha, è molto di conforto per le famiglie, dice Francesca Fiorillo, psicologa e psicoterapeuta del Centro Regionale Trapianti. A Deianira e a 169 parenti di altrettanti donatori, il grazie dello Stato, una pergamena che ha quasi il valore di una medaglia al valore civile consegnata nel corso della 12ª giornata della riconoscenza, cerimonia unica in Italia che torna dopo 3 anni di stop dovuto alla pandemia. In Friuli Venezia Giulia restano ancora passi avanti da fare sulle dichiarazioni di volontà registrate al momento del rilascio della carta d'identità. Il 28% è negativa, la media italiana è del 32%, ma quella regionale è comunque più alta delle prime in classifica che sono la provincia di Trento e la Val d'Aosta con il 22%. Tra organi interi, valvole e tessuti, ciascun sì cambia la vita a più di una ventina di persone. Tra gli ultimi esempi di altruismo, la scelta di Alexia Vecchiato, la 22enne morta in un incidente stradale a Castellonzi di Strada. Poche ore fa si è concluso il percorso che ha portato alla donazione. Lei stessa aveva espresso questo desiderio. Di recente, un 81enne ricoverato in regione ha donato il suo fegato a un ragazzino di 11 anni in Veneto. La morte di una persona anziana che salva un bambino piccolo, indica Domenico Montanaro, presidente dell'Associazione Donatori Friuli Venezia Giulia. E questo è un esempio molto significativo, conclude, di come il trapianto sia un superamento della morte. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. L'economia, continuano i segnali di debolezza nel settore della manifattura in provincia di Udine. Nel terzo trimestre di quest'anno, secondo la ricerca dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, la produzione è diminuita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed è crollata dell'8,2% rispetto al secondo trimestre, ma va contato che si tratta di mesi estivi. Un calo dovuto alla flessione delle vendite in Italia, -5,6% rispetto a quelle all'estero, scese solo del 2,3%. Per il futuro il quadro non migliorerà. Il 63% delle imprese prevede che la produzione resterà stabile, il 32% si aspetta una contrazione e solo il 5% guarda una crescita nei prossimi mesi. Sono state consegnate questa mattina a Pordenone le borse di studio ai giovani pordenonesi diplomati nello scorso anno scolastico che avevano aderito al bando del comitato In Luce. Sentiamo. 9 i giovani premiati, tutti legati al territorio pordenonese, 5 coloro che dopo le superiori hanno scelto l'ITS, la specializzazione post-diploma, 4 quelli che hanno intrapreso il percorso universitario. Un premio allo studio che motiva e incoraggia. Tra i ringraziamenti dei vincitori anche la volontà di far fruttare la borsa di studio del Comitato In Luce, parole particolarmente apprezzate dal presidente del Comitato, Renzo Zaghet. Il vice sindaco reggente Alberto Parigi ha ringraziato le imprese che contribuiscono al Comitato In Luce, sottolineando che il Comitato ha intrapreso un atto di fiducia verso il futuro che non è cosa facile di questi tempi. Oggi viene valorizzato il merito, ha detto Parigi, e si è appellato alle imprese. Questo comitato diventi ancora più consistente. Anche Michelangelo Argusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e presidente della Fondazione ITS, ha sottolineato la necessità della valorizzazione del giovane capitale umano, ma soprattutto che va premiato il merito e va riportata a scuola l'assunzione di ascensore sociale. Pordenone, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al Duomo di Udine si celebra la giornata provinciale del ringraziamento agricolo, evento antico riscoperto da Coldiretti nel 1951 e che da 50 anni è nel calendario liturgico nazionale. Alle 18.30 il ritrovo dei mezzi agricoli, alle 19 la messa celebrata dall'arcivescovo Riccardo Lamba. Quella di oggi sarà un'occasione importante per guardare al futuro con speranza, dichiara il presidente della Coldiretti Udine Melchior, nella consapevolezza del ruolo che l'agricoltura, attraverso il lavoro delle imprese, può svolgere per la ripresa del territorio. Sono circa 7.000 i volontari in Friuli Venezia Giulia impegnati oggi per la giornata nazionale della colletta alimentare alla sua 28ª edizione. I presidi riguardano quasi 400 punti vendita in tutta la regione, la maggioranza in provincia di Udine, oltre 200, 107 nel Pordenonese, una trentina a Trieste e altrettanti a Gorizia. In vetrina oggi a Trieste le scuole paritarie, una presentazione di stretta attualità dopo il dibattito politico sui contributi regionali a chi sceglie questi istituti. Il bonus di 1.500 euro destinato alle famiglie sotto i 40.000 euro di ISEE che scrivono i figli alle scuole paritarie è uno degli emendamenti alla legge di bilancio di cui più si è parlato questa settimana. Una proposta che il Parlamento deve ancora valutare. A Trieste il contributo taglierebbe la retta annuale della metà. Ammonta infatti a 3.000 euro in media il costo di una scuola paritaria nell'area giuliana, dove tra infanzia e primaria sono oltre 1.100 gli alunni frequentanti. La sezione triestina della Federazione Italiana Scuole Materne, che raggruppa questi istituti, ha aperto le proprie porte alle famiglie per illustrare l'offerta formativa. Nonostante il calo demografico, i numeri sono tendenzialmente in leggera crescita negli ultimi 3 anni. Il presidente Stefano Formigoni. Siamo contenti di attirare le preferenze delle famiglie e quindi di continuare ad offrire un'alternativa alle scuole statali e comunali. Ma perché alcune famiglie scelgono le paritarie rispetto a statali e comunali? Una delle ragioni, ci spiegano le insegnanti, è la ricerca dell'orario prolungato al pomeriggio che garantisce ai genitori una migliore conciliazione tra vita privata e vita lavorativa. Nel mondo di oggi questa cosa è molto sentita, i genitori hanno bisogno di una garanzia affinché possano portare avanti anche la loro esperienza lavorativa. Se molte delle scuole paritarie hanno una connotazione cattolica, a Trieste c'è anche l'Istituto Comprensivo Ebraico, che accoglie però anche le famiglie di fede diversa. Abbiamo bambini di tutte le religioni e anche di tutte le provenienze, perché ci sono molte famiglie con genitori non italiani. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la seconda edizione del Festival Riflessere, Festival della Legalità, in programma oggi a Brugnera l'incontro intitolato Vivi la notte, tutto dipende da te. Tra gli ospiti ci sarà l'ideatore del progetto Federico Lessio, che appunto è un esperto di comunicazione per i giovani. Insieme a lui parlerà lo psicologo Stefano Carbone del Servizio Sociale dei Comuni Sile Meduna, che analizzerà i meccanismi di conformismo e di influenza del gruppo. L'appuntamento è alle 20.45. Come detto, a Brugnera, al centro di aggregazione giovanile. È in corso a Trieste il convegno dal titolo ADHD, disturbo da deficit di attenzione iperattività dall'età evolutiva all'età adulta, diagnosi, presa in carico e terapia. È il primo di questo genere in regione, organizzato dall'AIFA, l'Associazione Italiana Famiglia ADHD. L'incontro, cominciato alle 9 nell'aula magna del polo didattico di Cattinara, si fa il punto sui percorsi di valutazione e diagnosi del disturbo, oltre che sulle terapie. Ne abbiamo parlato con il professor Umberto Albert, direttore a Sugi della clinica psichiatrica che si occupa del trattamento del disturbo negli adulti. È un disturbo che è conosciuto da moltissimi anni, fin dalla fine del Settecento. È un disturbo che è prevalentemente conosciuto nei bambini e negli adolescenti. È recente l'attenzione che viene posta dalla psichiatria dell'adulto, nel senso che è un disturbo del neurosviluppo, quindi un disturbo che per definizione esordisce in età infantile e nella maggioranza dei casi evolve in età adulta con sintomi che persistono in età adulta. È più recente l'attenzione della psichiatria dell'adulto nei confronti di questo disturbo e anche le terapie, cioè non riconoscendo il disturbo, ovviamente per anni non abbiamo offerto terapie, adesso esistono delle terapie che sono molto efficaci. La terapia è multimodale, quindi vuol dire che è sempre una combinazione di interventi psicosociali o psicoterapia con interventi che possono anche essere farmacologici. Quanto è diffuso? Allora, la stima in Italia è 2,5% negli adulti, un po' più frequente in età infantile e adolescenziale, perché molte delle persone che hanno ADHD vedono i sintomi attenuarsi in età adulta grazie a degli interventi precoci sicuramente, ma anche all'aver sviluppato strategie di compenso. Noi abbiamo avuto un incremento al centro aperto dal 2021 e abbiamo avuto un incremento incredibile di richieste. Al momento attuale seguiamo circa 200 persone, sono circa 60-70 ogni anno le nuove richieste di presa in carico. Di queste persone, diciamo che una stima delle persone che chiedono una visita, l'80% in effetti viene confermata la diagnosi in età adulta, quindi sono persone che ricevono per la prima volta in età adulta la diagnosi, questo è molto importante, cioè disturbo che non era stato riconosciuto in età infantile e adolescenziale. Diciamo che un 60% di queste persone che ricevono la diagnosi vengono poi trattate dal punto di vista anche farmacologico. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 Richter è stata registrata questa mattina alle 8.24 in Slovenia, una decina di chilometri a nord-est del confine con l'Italia. L'epicentro è nei pressi di Grgar, nel territorio del comune di Nova Gorica. Il movimento tellurico si è verificato alla profondità di circa 15 chilometri. Ne dà notizia la Protezione Civile regionale. Non si registrano disagi connessi all'evento. Alle 12.45 diamo uno sguardo al tempo, con cielo in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13 gradi, a Gorizia 11 gradi e 5 decimi, a Udine 12 gradi, a Pordenone 10. A Tolmezzo 8 gradi, a Treviso meno 1 grado, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 10 gradi, a Sappada 1 grado. In montagna sullo Zoncolan 9 gradi e sull'Ussari 7 gradi e mezzo, sulla costa a Grado e a Lignano 10 gradi. Previsione a cura dell'ARPA, anche oggi avremo per tutta la giornata cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, marcate inversioni termiche come abbiamo visto dalle temperature, con zero termico a 3000 metri. Entrano nel vivo Trieste le giornate del premio Lucchetta 2024, che domani mattina al Teatro Miera culmineranno con le premiazioni dei vincitori di questa 21esima edizione. Il Lucchetta, premio giornalistico internazionale tra i più prestigiosi, è l'unico che abbia come focus specifico i bambini. A istituirlo la Fondazione Lucchetta Otto d'Angelo Hrovatin, in ricordo dei colleghi della RAI uccisi a Mostar Est nel 1994. Tra le nuove sezioni di quest'anno c'è la radiofonia. Il premio è andato ad Azzurra Meringolo, inviata del giornale Radio Rai, protagonista di un incontro assieme al presidente della giuria Riccardo Iacona, e li sentiamo in queste interviste, cominciando dalla riflessione sulle guerre del giornalista e conduttore di Presa Diretta di Rai 3. E sono passati anni da quando si sono riapparse nel continente europeo con l'Ucraina, e adesso c'è la vicenda medio orientale, e sono pochissimi, non si vedono gli sforzi per gettare acqua sul fuoco, per un cessato il fuoco, perché terminino i massacri. E lei ricorda l'episodio di 30 anni fa, quando morirono i nostri tre colleghi. Trova delle analogie tra quella guerra e ai conflitti in atto adesso? L'analogia, quella vera, quella che c'è sempre, è che viene colpita l'informazione, perché è quella, perché bisogna, la guerra ha sempre bisogno di schierare l'informazione, ha paura dell'informazione. E quanti sono stati i morti da questi 30 anni ad oggi, e quanti in questi ultimi 2 anni in Ucraina e Medio Oriente? Tantissimi. Per questo dobbiamo difendere la agibilità sui territori di guerra dei nostri cronisti, perché altrimenti non sapremo niente, se è solo propaganda. Questo premio intitolato alla memoria di colleghi morti in zona di guerra, quanto ci si rende conto dei rischi che si corrono? Per noi che lavoriamo in questi contesti anche per periodi molto lunghi è complesso a volte accorgersi del rischio che di fronte al quale siamo, tendiamo, ahimè, anche pericolosamente ad abituarci. È importante quindi fermarsi a riflettere per capire anche come prepararsi meglio ad affrontare questi rischi, e come anche raccontare poi che cosa rischia la popolazione civile all'interno della quale poi noi come giornalisti e giornaliste inviati lavoriamo. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora gli spettacoli nell'agenda di oggi. Tanti appuntamenti, alcuni dei quali di livello assoluto, a cominciare da Roberto Ball and Friends al Teatro Nuovo di Udine. Il primo ballerino della Scala ha chiamato con sé alcuni dei migliori danzatori del mondo per 10 coreografie, una delle quali viene proposta in anteprima. Le due date udinesi, oggi e domani, sono da tempo sold out. Solo due date, ma in tutta Italia, anche per il concerto di Lady Blackbird, Stella del Soul, che questa sera sarà al Teatro Zancanaro di Sacerdoti Cile, e domani a Bologna per il festival Il Volo del Jazz. Ad Azzano Decimo la Compagnia dell'Arancia apre la stagione del teatro Mascherini con un musical di grande richiamo, Grease. Al piccolo festival dell'animazione che si sta svolgendo a San Vito al Tagliamento, oggi si parla della tecnica del pick screen, che questa mattina è stata illustrata da uno dei suoi più brillanti continuatori, il francese Alexandre Noyer. Alle 16 all'Auditorium Zotti sarà presentata una serie di lavori realizzati con questa tecnica. Prima della tornata serale dei film in concorso, che comincerà alle 21, ci sarà l'incontro con la giuria. Ne fa parte Margherita Giusti, che torna a San Vito un anno dopo la sua partecipazione con The Midseller, che ha vinto il David di Donatello tra i cortometraggi. Le chiediamo allora che anno è stato questo per lei. È stato un anno molto impegnativo, ma anche pieno di sorprese, innanzitutto, perché insomma nessuno se l'aspettava. Ho girato tanto, ho portato il film anche all'estero, è stato davvero un anno molto divertente. Stancante, ma molto molto divertente. The Midseller è un film, un documentario animato, quindi comunque stiamo parlando di un film abbastanza di nicchia, però prodotto da una casa di produzione con un team insomma abbastanza medio, perché eravamo in totale 16 persone, quindi sicuramente è stato un riconoscimento importante per il mondo dell'animazione. E spero che questo tipo di animazione, appunto, cioè l'idea di pensare all'industria dell'animazione, anche dell'animazione autoriale, comincia a prendere piedi in Italia. È qualcosa che si vede anche al piccolo festival di animazione, dove arriva veramente un prodotto di altissima qualità. Che attività è stata fare parte della giuria di un festival come questo? È molto difficile in generale l'idea di dover scegliere tra film così diversi e così belli, quindi è sicuramente una sfida. Comunque sia, il Festival di Paola è un festival che, al di là poi del film premiato, credo che dia a tutti i film lo stesso spessore, ci stanno anche delle mostre. È un festival molto molto interessante. Altri spettacoli di oggi: Marta Cuscunà torna in scena con i suoi Corvi Meccanici. L'ultima versione di Corvide, Sguardi di Specie, va in scena a Villa Manina alle 18 nell'ambito della mostra Terza Terra, allestita dall'ERPAC con la Fondazione Pistoletto. Il Viozzi Guitar Duo, ovvero Fabio Cascioli e Giulio Chiandetti, suonerà a Gorizia a Palazzo Coronini Cronberg alle 18 con un programma di musiche originali per duo. A Riamanzacco si celebra il centenario della coscienza di Zeno. Il gruppo musicale Lumen Harmonicum alle 20.45 in auditorium presenta Un caffè con Italo Svevo. Siamo allo sport basket, riflettori sulla A2 che questa sera propone una sfida di alto livello a Cividale, dove la Gesteco ospiterà alle 20.45 la Fortitudo Bologna. Ruoli invertiti rispetto alla vigilia del campionato, i favoriti oggi sono i Ducali, 7 successi di fila, mentre gli Emiliani sono in crisi, hanno appena registrato le dimissioni del presidente Tedeschi. Ospiti dunque chiamati a una prova d'orgoglio, ma a Cividale è difficile passare. Domani toccherà l'APU Udine, che al Carnera ospiterà Vigevano, mentre in Serie A Trieste giocherà in casa contro Trapani. Oggi in campo anche la A2 femminile, in programma Vicenza Futurosa Trieste alle 17.30 e Delser Udine Mantova alle 20.30. A canestro anche in libreria, con un appuntamento alla Lovat di Trieste questa sera alle 18, si presenta il libro dedicato al Mozart del basket, Dražen Petrović, scritto da Lorenzo Iervolino per 66th and Second. A parlare del campione, scomparso 29 anni nel 93, saranno Bogdan Tanjević e Matteo Zannini. Pallonuoto femminile, Trieste sfida questa sera le ungheresi del Keruleti nell'andata dei quarti di finale di Eurocup. L'inizio alle 18.30, l'ingresso è libero. Le due squadre si sono già affrontate un mese fa nei preliminari di Champions e in quella circostanza le orchette vinsero di misura. E alla partita di Zizza sono decise a far valere il fattore campo. Il ritorno in Ungheria si disputerà il 30 novembre. E l'olimpionica Noemi Batki terrà a battesimo oggi pomeriggio la prima edizione del meeting internazionale di tuffi, trofeo città di Trieste, organizzato dalla Triestina Nuoto e dal Comune. Le gare, sempre alla piscina Bianchi, si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30 oggi e domani dalle 9.30 a mezzogiorno. Trampolini e piattaforme vedranno di scena i migliori giovani del momento fra i 14 e i 17 anni. Ne parliamo con Sigrid De Riz, direttrice generale della Triestina Nuoto. Questo evento nasce da una scelta tecnica, perché a dicembre inizierà il campionato italiano dei tuffi, dove i giovani tuffatori si confronteranno e ci sarà già un primo momento in cui potranno raggiungere i punteggi per la selezione poi da parte del CT, della Nazionale Giovanile, per quanto riguarda la stagione. Quindi la scelta di creare questo evento prima dell'inizio del campionato è per dare l'opportunità alle squadre italiane. Infatti il riscontro è stato veramente importante, proprio per dare la possibilità di un confronto per questi atleti prima di accedere al campionato italiano. Due giornate di gare, qualche nome su cui punta la Triestina per raccogliere per esempio l'eredità di Noemi Batki? Da poco è passata in squadra la Marianna Cannone, che a tutti gli effetti è una nostra atleta, che adesso parteciperà ai campionati mondiali juniores in Brasile. e quindi con grande orgoglio parteciperà questo weekend alla gara e poi sarà presente con la nazionale giovanile. Oltre a lei, altre due atlete, una della MR Sport, un'altra ragazza sempre nostra della Triestina Nuoto che non ha partecipato l'anno scorso all'Otto Nazioni, è un atleta croato, abbiamo un club croato che arriva con un atleta che l'anno scorso ha partecipato agli Europei Juniores. A Legnano in corso i campionati del mondo paralimpici di nuoto pinnato e in apnea. Per gli azzurri pioggia di medaglie, ben tre dalla friulana Katia Aire, già sul podio di Tokyo nel handbike. Andrea Saule l'ha intervistata. Katia, siamo abituati a vederti in un'altra veste, però il nuoto, oltre che un discorso di salute, è una maniera per tenere alto il tuo spirito competitivo. Assolutamente sì, il nuoto per me è proprio vita e salute, perché attraverso l'acqua riesco a fortificare insomma la mia muscolatura, che dal 2003 appunto è stata colpita da una malattia autoimmune. Come hai detto tu, sono scesa dall'handbike dopo Parigi, dopo l'ultima tappa del Giro d'Italia, giusto in tempo insomma per rituffarmi in piscina e preparare al meglio questi mondiali sia di pinnato che di apnea. Che stanno andando particolarmente bene. Sì, devo dire che mi stanno regalando gioie e sorprese incredibili, perché abbiamo iniziato ieri pomeriggio con il nuoto pinnato, 25 apnea e 25 pinne. Ho staccato il nuovo record del mondo di 25 pinne, che tra l'altro era il mio precedente. E anche nei 25 apnea è andata molto bene, altro titolo mondiale. Questa mattina in vasca per l'apnea dinamica con attrezzi, perché ieri dopo il nuoto pinnato sono andata in vasca per l'apnea senza attrezzi e anche lì è stato un po' difficile, perché era in realtà la seconda volta che mi cimentavo su una gara di questo tipo. Sono riuscita comunque a fare il mio personale e a portare a casa insomma l'argento mondiale, quindi molto felice. E questa mattina invece dinamica con attrezzi, personale migliorato di oltre 10 metri e un nuovo record al mondo. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Non perdete domattina l'appuntamento con le nostre rubriche. La radio subito dopo la prima edizione del GR andrà in onda Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani ha in apertura un'analisi dello stato di salute di api domestiche e selvatiche. A seguire la poleta dell'Alta Valtorre, un piatto super energetico nella rubrica del bio, come terminare correttamente il sovescio. E ancora seconda puntata con le patate, tra nemici e varietà friulane, l'importanza di sanificare locali e attrezzature per la conservazione del vino e nelle prealpi carniche alla scoperta della foresta regionale del Prescudin. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. 12 e quasi 59 minuti, vi lasciamo al GR1 delle 13, prossima edizione del GR regionale oggi alle 14.30. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.